Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Sarà meglio che godersi fino in fondo queste prime giornate di Eurolega, perché ho la sensazione che tra un po' ci saranno gli aerei, i voli pieni verso gli Stati Uniti, anche perché si sta avvicinando la prima deadline, cioè il 15 novembre se non ricordo male, che è fine mese per i giocatori NBA, e quindi quando cominceranno a perdere la prima mensilità cominciano a sentire davvero puzza di bruciato, e credo che il lockout si sbloccherà molto presto. Ma poi ci colleghiamo anche con gli Stati Uniti per capirne di più. Intanto, coach Dan Peterson, buon pomeriggio. Ciao cari amici sportivi, buongiorno a tutti. Subito sull'Eurolega, un'Eurolega meravigliosa secondo me in queste prime battute. La settimana scorsa stavamo festeggiando le tante vittorie delle nostre squadre, l'Empleni 3-3. Stavolta ci accontentiamo della passeggiata di Siena, però Cantù che combatte da squadra vera a Vitoria, perdendo alla fine 81-69 per la cronaca, Milano che accarezza il sogno a Madrid e poi viene svegliata dagli schiaffoni di Jesse Carroll. Insomma, tutto sommato sono due sconfitte, come direbbero quelli del rugby, due sconfitte onorevoli. Ma hai descritto perfettamente, cioè, sia Cantù che Milano, tutti e due abbiamo fatto delle ottime partite. Cantù addirittura era in testa, dopo tre quarti era proprio meno due, a Milano addirittura 53-40, era più 13 ieri sera, quindi bastava un niente per veramente far più 15, e con più 15 cambia tutta la storia. Complimenti al Real Madrid, ovviamente complimenti alla Vittoria, che sono riusciti a rimontare e vincere, però buona indicazione da loro. E Siena, una partita che abbiamo fatto noi per Sport Italia ieri sera dell'Eurolega, ha giocato primo quarto come Siena, cioè 26-4, poi il secondo quarto, il secondo quintetto non è andato bene come sempre fa per Siena. Terzo quarto Pianigiani ha messo il quintetto base, se tu fai la somma del primo e terzo quarto Siena ha vinto con le due, frazione totale di 40 punti. Milano che conduce di 13 a Madrid, che accarezza il sogno, che poi viene appunto risvegliata da JC Carroll. Scariolo dice, e non ha torto probabilmente, non abbiamo ancora l'esperienza di squadra, non di singoli giocatori ovviamente, che serve per portare a casa quanto ti sei costruito, coach. Poi assolutamente, lui a farla specificare l'idea di squadra, perché singolarmente ovviamente i giocatori tutti hanno fatto quasi tutti un Final Four di Eurolega, con l'Olympiacos, Drew Nicholas e Fotsis con Panathinaikos, Mancinelli con la Fortitudo, quindi se vai avanti a guardare, e poi quarti finale l'anno scorso a Cook, tanto per dire, tutti hanno fatto qualcosa di questo tipo in Eurolega. Ha detto Sergio perfettamente, da squadra, cioè insieme devono ancora fare le cose, però le prospettive sono per me ovviamente molto positive, sia per Milano che per Cantù, che è la stessa identica situazione di esperienza di gruppo in questo tipo di manifestazione. Però le due squadre, per me, in trasferta contro due ottime squadre in Spagna, hanno dato segnali molto importanti. Hai visto Siena che si è arrabbiata, perde a Caserta, bravissima Caserta, tra l'altro tra poco sentiremo anche coach Pino Sacripanti per farci raccontare questa vittoria e la rinascita, la ricostruzione di Caserta. Perde a Caserta e subito corre ai ripari, evidentemente Minucci si è un po' spaventato, dentro Rakočević, e poi c'è sta storia di Omar Thomas che è abbastanza fumosa, o meglio, non è fumosa, ma nasconde delle pecche secondo me piuttosto evidenti, perché non si può far giocare un giocatore subiudice in questa maniera. Comunque, al di là di questo, Siena che prende paura e corre subito dal mercato. Ora, io non dico che era preso paura, si sono preso coscienza delle cose. Infatti, Fernando Minucci ha detto, abbiamo fatto una scommessa con Summers, qualche volta le scommesse vanno bene, qualche volta no, questa volta Summers no, anzi non è stato neanche fra i 12 ieri sera, quindi imminente penso il taglio e l'arrivo, come hai detto tu perfettamente, di Omar Thomas, Rakočević già arrivato. La cosa di Siena, io faccio tanti discorsi di team building e molti su crisis management, come far maneggiare una crisi, ok? E una delle cose negative di una crisi è quando tu aspetti troppo tempo per intervenire, diventa una crisi cronica, cioè, e lì porre rimedio diventa molto più difficile che veramente agire subito. E Minucci non aspetta minimamente la crisi cronica, dice oh, non mi piace questo segnale, cambio subito senza perdere tempo. Quindi lui che ha fatto la fortuna di Siena con la costanza, con il gruppo insieme da tanti anni, quando ho letto questa situazione ho detto no, non mi piace questo andamento qua, la situazione che abbiamo, subito faccio due cambi. E non è detto che finisce con queste due qua, perché il mercato è sempre aperto. Certo, 800240024 naturalmente è il numero verde per parlare con noi, poi avete Facebook e Twitter, avete i messaggi SMS 349-238-6666. Infine coach, dicevo prima, sei d'accordo con me, 15 novembre scade la prima data degli stipendi, no, dell'incasso per i giocatori NBA, che non dico che calano le braghe, però vorrei dirlo, mi sembra che stiano facendo concessioni. Tu hai fatto veramente una fotografia perfetta della situazione, cioè tutti sono duri fino a vedere, oh, questo mese non è arrivato lo stipendio, la moglie dice, caro, come va al supermercato, non parliamo delle fidanzate, le ex mogli, i figli, gli amici, familiari, eccetera, quindi loro hanno bisogno di soldi più di noi, ovviamente, però come tutti lo stipendio che manca è una cosa tragica. Adesso capiscono cos'è la crisi e si raggiungeranno probabilmente un accordo, l'hai detto tu perfettamente, perché prima dall'America, anche negli ultimi giorni, ho sentito diverse persone dire tra poco finirà, sono molto vicini. Sì. Poi tu sai che qui anche con voi su Radio 24 qualche volta ho detto imminente la chiusura, non era imminente per niente, quindi mi mordo la lingua, ma penso che il segnale ci sono. Cos, prima di salutarti regalo un pronostico a un nostro ascoltatore, so che sono la tua specialità, non riguarda il basket ma il baseball, e c'è un ascoltatore che ti chiede, coach, stanotte Texas o St. Louis? Ma devo dire St. Louis anche, ma non perché, ma uno gioca in casa, due, una grande vittoria ieri sera 10-9 proprio all'extra inning supplementare, anzi due riprese supplementari, una grandissima impresa, e poi sono della Lega Nazionale, degli miei Chicago Cubs, quindi forse per simpatia, anche se ammetto che Texas è la squadra più forte, la settima a St. Louis, e forse avendo avuto un giorno di pioggia, quindi cancellata la partita, forse Carpenter può lanciare questa sera. Quindi dico St. Louis 51-49 St. Louis per le World Series. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ragazzi, grazie. Ciao amici sportivi. Grazie, ciao. Grazie coach Gian Peterson. Palla spicchi. Torniamo con un messaggio di Michele da Valenza, cui rispondo. Joe Trapani è andato via. Joe Trapani? O Joe Trapani, se volete pronunciarlo all'americana, è andato via da Casale, si è stato risolto questo contratto, americano deludente, nonostante le buone credenziali, doveva trattarsi di un grande tiratore, evidentemente a Casale non ha trovato così la chimica giusta ed è stato risolto il contratto e dunque in attesa Marco Crespi di un nuovo giocatore. 800240024, vi ripeto, è il numero verde. Armando da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, io sono un appassionato di basket, una volta un pochino di più rispetto ad adesso. Ecco, però ecco, io la domanda che volevo fare... No, una volta quando? Quando c'era Pietkiewicz e Abernathy a Brescia? Qualche anno fa, una decina d'anni fa. Sì. Quando Brescia era in Serie A2. Brescia sta tornando però, eh? Sta tornando, speriamo, questo è l'augurio di tutti noi bresciani sicuramente. Sì, piazza storica. La domanda che io volevo fare era inerente alla querelle Kobe Bryant. Sì. Adesso Dan Peterson non è più in collegamento, purtroppo sarei stato curioso di sapere, insomma, di avere un commento. Beh, gliela giriamo senza problemi alla prossima, non si preoccupi. Dica. Ma non vorrei capire se questa potrebbe essere una soluzione per il futuro, il fatto che giocatori professionisti della NBA o di altri campionati di livello superiore rispetto a quello italiano, vengano a giocare per il campionato italiano, che al momento a mio avviso è un campionato che manca di competitività. E magari ha bisogno anche di soluzioni di questo tipo per riemergere dalla... e per avere luci, per avere vetrina, insomma, esatto. Anche lì è una questione di, beh, di soldi, è una questione di contratti. Questa... di marketing, mi sembra di aver capito, però non è andata a buon fine, se non capisco chiaramente. Non è andata a buon fine, era un'operazione molto complicata, però basta guardare l'Eurolega di questo inizio di stagione, ahimè temo durerà poco, però basta guardare l'Eurolega, insomma in Eurolega ieri sera abbiamo visto Rudy Fernandez contro Danilo Gallinari, c'è stato Batum che ne ha segnati 26 contro con il suo Nancy. Insomma, c'è Kirilenko, ci sono superstar o comunque giocatori importanti dell'NBA che sono qui per ragioni contingenti, cioè là il campionato non è partito e giustamente hanno trovato il modo di fare un po' di soldi e di tenersi in condizione. Non credo però che sia appunto una situazione abbastanza irripetibile, cioè non è pensabile che il campionato italiano o qualunque altro campionato europeo abbia la possibilità, la potenzialità per strappare giocatori dell'NBA. Non è possibile oggi, ma non penso sarà possibile nemmeno nell'immediato futuro, insomma. Io saluto l'allenatore che ha annunciato prima che ha fatto arrabbiare Siena, e cioè Pino Sacripanti, Corsi di Caserta. Ciao Pino, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Beh, dicevo prima, li avete fatti arrabbiare e sono ricorsi al mercato. Beh, non credo che sia per la nostra sconfitta, credo che Siena abbia una programmazione che va al di là delle sconfitte temporanee, e così noi comunque non sono fatti nostri, noi siamo contenti, abbiamo preso due punti che probabilmente peseranno poi alla fine del campionato, visto che magari adesso che hanno già perso una partita, e che io credo che alla fine tra Siena e Milano e Cantù siano molto attenti a chi arriverà per primo nella regular season per il fattore campo. Credo che poche altre squadre riusciranno a vincere a Siena, quindi noi siamo contenti, abbiamo approfittato della situazione contingente, abbiamo fatto una partita molto attenta e insomma siamo riusciti, credo meritatamente, per quella gara di portare a casa i due punti. Beh, puoi levare anche il credo, Pino, lo so che lo dici per modestia, ma puoi levare anche il credo perché la partita l'abbiamo vista tutti. Tu quindi credi che sia ancora la situazione degli anni passati, quella che un paio d'anni fa da questi microfoni Bruno Arrigoni disse: giocare contro Siena è come il gioco dell'oca, no? Quindi stai fermo, tiri due volte o stai fermo un giro e vai in prigione. È ancora così? È ancora così? O qualcosa è cambiato? Ma io credo che qualcosa sia cambiato, soprattutto perché Cantù è diventata una squadra molto solida, con un palazzo sempre esaurito, con tutti questi abbonamenti, con un budget alzato in maniera notevole, che gli ha fatto fare una squadra come credo mai abbia fatto Cantù sotto in tutti questi anni. Milano ha fatto il grande passo, cioè da allenatori bravi come poteva essere Piero Bucchi, dal cambio col mitico Dan, che è stato bravissimo, però hanno preso poi dei giocatori di un'altissimissima fascia e hanno deciso di far allenare all'allenatore che insieme a pochi altri ha sempre allenato squadre di altissima fascia, quindi ha fatto il passo proprio, come dire, o la va quest'anno, insomma, poi non ci sono poi tante altre possibilità, e quindi mi sembra che si sia un po' livellato. Chiaro che Siena parte sempre da quella diciamo quell'esperienza che ha sul campo, che ha come società, che ha come battaglie fatte, vinte, abitudini nel vincere così, però io credo che a livello prettamente tecnico si sia abbassato un po' il gap tra Siena e le altre squadre. Sì, poi tanto Siena viene a Caserta e perde 89-84 l'anno scorso, tu sei l'unico allenatore che hai le chiavi per battere Siena. Ah no, vabbè, questo è chiaramente fa piacere, ma soprattutto fa piacere perché per noi sono dei punti importantissimi. L'anno scorso Siena è venuto un momento delicato dove dopo andavano a giocare una partita importantissima per le qualificazioni del Final Four, quest'anno siamo all'inizio dell'anno. È chiaro che credo che la cosa fondamentale quando giochi contro di loro sia il fatto intanto di crederci, ecco, di non andare là Bravo. come esatto. si fa molte volte esatto. a limitare il passivo, perché esatto. tanto poi lo so che, anzi a me, io sono il primo, quando torno a casa che ne ha presi 40 non dormo per due notti, però alla fine per di uno per di 40 credo che non cambi nulla sotto un punto di vista della classifica, perché tanto non ti porti dietro i punti di differenza canestri, certo. ecco. E quindi se tu ci credi realmente fino in fondo senza aver paura di vincere e la prepari, poi vai a vedere come va, ecco. Poi è chiaro che ci vuole anche che anche loro ci mettano un po' del loro, però se tu dopo ti accontenti di aver fatto una buona partita, magari ti manca l'ultimo pezzettino, che è quello di portare a casa i due punti. Guarda, l'atteggiamento che io ho sempre criticato in maniera molto convinta negli ultimi anni, cioè giochi contro Siena la dai su prima di giocare, questo era aiutava, non aiutava nemmeno Siena a crescere, ed era chiaro, comunque chiaro. Una bruttissima immagine per il campionato italiano. Pino, invece sulla tua Caserta, questo è l'anno della ricostruzione, no? C'è stato la finale scudetto, c'è stato un ovvio anno di transizione, dove anche per, non so, legami affettivi, per tutto quanto hai tenuto il nocciolo duro di quella squadra che aveva giocato la finale scudetto. Quest'anno la ricostruzione è così? Sì, sai, l'anno scorso però dobbiamo anche dirci la verità, noi abbiamo anche avuto qualche problema societario, cioè abbiamo avuto il nostro presidente Sicuro. Storico che è stato dimissionario, insomma qualche problema ce l'abbiamo avuto, e quindi non è stato così facile. La prima volta che eravamo su due fronti, tra quello di Coppa e Campionato, dove in Coppa comunque abbiamo fatto benissimo, è vero, Campionato non ci siamo ripetuti, però davvero in mezzo a mille difficoltà. Quest'anno è l'anno della ricostruzione, perché è cambiato il presidente, si è dimezzato fondamentalmente il budget, abbiamo fatto con veramente pochi soldi, però nello stesso tempo è l'anno un po' della sfida, cioè vediamo se siamo capaci anche così di reggere l'urto di un campionato così importante, e soprattutto di allenare dei giocatori che possano essere lanciati pur non avendo il nome o non avendo un pedigree importante. Siamo stati molto attenti quest'estate, io in primis, perché non abbiamo un general manager, ma diciamo che faccio io insieme alla presidenza, così. Siamo stati attenti a prendere dei giocatori di bravi come persone, ma soprattutto con degli stimoli di potersi mettere in evidenza e di avere una voglia di rivincita. Insomma, mi sembra che il lavoro per adesso in palestra vada benissimo, io sono molto contento. Se poi è supportato dalle vittorie, abbiamo vinto di uno con Treviso, abbiamo vinto a Siena, questo ci dà molto molto respiro, però non cambiano i nostri obiettivi, che è quello di una salvezza più al primo possibile, perché poi arriveranno anche momenti un po' meno belli di quelli di adesso, e poi dopo vediamo se riusciamo a fare, una volta salvi, ad avere, a guardare un po' più in là per vedere se si può entrare nei play-off. Un'ultima cosa, Pino, qui sul tavolo aperto l'ultimo numero di Superbasket, dove c'è Jordi Bartomeu che fa un po' le pulce all'Italia, ma secondo me giustamente dice: mi preoccupano le 18 squadre, non sono figlie che verranno, non sono figlie della programmazione, ma il risultato di una di un pasticcio, un altro pasticcio, quello di Thomas. Bartomeu non ne parla, però a me fa inorridire questo discorso. Insomma, rimaniamo a Bartomeu, alle prospettive, a un'Eurolega che chiede spazio e strada, perché è chiaro che se ti portano una partita al venerdì, questo vuol dire in qualche modo stravolgere o invadere il territorio dei campionati nazionali. Andiamo verso un futuro di un campionato europeo e campionati nazionali differenti, secondo te? Beh, io credo di sì, credo che alla fin fine le squadre di primissima fascia, come da noi può essere Siena, Milano, il Maccabi e tutte, insomma, quelle squadre di Eurolega, insomma, vogliono uno spazio loro, vogliono qualche cosa di molto importante per loro. Io non sono contrario alle 18 squadre, sono un po' più così, sarei un po' più selettivo sulla serietà dei campionati, per me l'impossibile, cioè veramente questa cosa tra Teramo, Venezia, la wild card, ecco, bisognerebbe essere molto più seri sotto quest'altro aspetto. Poi magari giocare nel precampionato prima che inizi l'Eurolega una partita in più nemmeno, io non credo che sia quello che faccia la differenza. Secondo me la differenza, per ridare una visibilità al nostro basket, deve essere una programmazione seria, concreta, con certo. regole molto sicure, paletti sicuri, e dove chi sgarra non può andare avanti senza guardare in faccia nessuno. Io credo che questa sia la cosa più importante. Poi È vero, io non faccio l'Eurolega, quindi non ho il problema diretto. Magari se l'avessi diretto preferirei fare un campionato a 8 squadre, ecco. Però è anche vero che, insomma, è anche giusto che in più piazze cerchiamo di mettere una pallacanestro di buon livello, e forse è meglio per tutto il movimento. L'importante, io credo, che sia non tanto il numero, la quantità, ma la qualità della gente, della serietà, delle regole precise, del sapere che c'è una programmazione, certo, di 4-5 anni senza stravolgere ogni anno i vari regolamenti, ecco. Io credo che questa sia la cosa in cui noi dovremmo impegnarci un pochino di più. Grazie Pino, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, Pino, saluto, un abbraccio a tutti. Il coach anti Siena, se ce n'è uno, e la cronaca la storia recente dell'anno scorso e la cronaca lo dimostrano. Palla spicchi. Riprendiamo con Marco da Venezia, ascoltatore che è già in linea, 800 24 00 24, numero verde. Poi magari mi piacerebbe commentare con voi anche questa grana di Omar Thomas, con questa cosa comica, se vogliamo, o tragicomica, della giudicante che ha detto no, Thomas ha comprato il passaporto e l'ha dichiarato, no, lo ha ammesso, sì, volevo comprare un passaporto bulgaro, poi alla fine sono riuscito a prenderne uno sloveno, ma tant'è. Sappiamo come ci sia un'inchiesta in corso da parte della giustizia ordinaria, e la giudicante ha detto no, aspettiamo la giustizia ordinaria. Ma come? E nel frattempo la giustizia ordinaria deciderà tra 40 anni, e nel frattempo uno che ha comprato un passaporto così adesso la fa franca e magari gioca come extracomunitario. Mi sembra ridicolo questo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo sapere cosa ne pensa di Venezia dopo queste prime due giornate di campionato, che aveva due squadre sulla carta veramente difficili come Siena e Cantù, invece mi sembra che fino alla fine se la sia giocata. Sì. Ascolto per radio, grazie. Grazie a lei Marco. Beh, insomma, se l'è giocata altro che, Venezia mi sembra tra le neopromosse. Poi posso parlare anche dell'altra di Teramo, perché tutte le volte che sento questi discorsi mi viene in mente Teramo, che non ha torto, dice beh, adesso, per i discorsi che stavamo facendo prima con Pino Sacripanti, adesso che ci avete fatto pagare i 500.000 per la wild card, adesso ridateceli un po' indietro, visto che quest'anno la wild card non c'è, così siamo gli unici fessi che devono pagare. Quanto a Venezia mi sembra una squadra molto interessante, una squadra che probabilmente sta ancora vivendo sull'entusiasmo della promozione così conquistata in maniera un po' bizzarra. È chiaro che è stata costretta a ripensare alla squadra nel giro di pochi giorni, ha preso giocatori certamente interessanti e sta giocando un avvio di stagione molto serio, sta giocando un avvio di stagione molto, molto consistente, perché non fai quelle due partite che appunto Marco citava che Siena ha fatto se non hai le carte in regola per farlo. Tra l'altro sappiamo bene come Siena si sia dovuta far prestare, non senza polemiche e non senza episodi spiacevoli, il palazzetto da Treviso. Lì ha giocato la sua partita con Cantù e a momenti riesce a portarla a casa. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi 349 238 6666. C'è un ascoltatore a cui è piaciuto Dan Peterson prima, quando ha detto beh, adesso i giocatori NBA sono in difficoltà perché scade il giorno del primo stipendio entro il quale dovrebbero percepire il primo stipendio, il bonifico non arriva, e adesso magari moglie e fidanzate cominciano a dire e come vado al supermarket. Nikos Zizis, buon pomeriggio Nick. Buon pomeriggio. Grazie. Senti, mi viene voglia di dire meno male siete voi, così il bilancio di Eurolega rimane quantomeno con una vittoria. La settimana scorsa 3-3, questa settimana solo Siena. State ricostruendo, quali differenze Nick rispetto a questo momento dell'anno scorso? Vinci per noi. Sì, per voi, presenze. Per voi. E ancora, sai, siamo all'inizio, era un pre-campionato un po' diverso per noi, sono stati tanti giocatori, erano con il nazionale, poi anche avevamo alcuni cambiamenti, alcuni infortuni, però secondo me piano piano troveremo la nostra chimica, la nostra identità. Sempre con il lavoro quotidiano è sempre importante. Per ora, che sicuro è anche importante, ci sono già tanti giocatori già dall'anno scorso, questo vuol dire che abbiamo alcuni automatismi, ma forse manca ancora una diciamo una continuità di 40 minuti durante le partite, che manca ancora. Sì. Però forse è normale per fino a ottobre. Senti Nick, però una Siena che perde subito all'inizio del campionato è stato qualcosa di inedito. Brava Caserta domenica o hai qualcosa da rimproverare alla tua squadra? No, sicuro brava Caserta, ma per tutto rispetto a loro era tutto colpa nostra. Voglio dire, non eravamo quelli che dovevamo essere. Non eravamo concentrati, sbagliando tante piccole cose, magari percentuali, e qualche volta in pallacanestro puoi sbagliare anche il canestro più facile. Le grandi squadre devono trovare sempre il modo di vincere le partite, invece noi contro, diciamo, tutte le squadre, almeno in casa, in campionato, ma noi non eravamo proprio con la testa in questa partita, e questo sicuro. Abbiamo già imparato e impareremo da questa sconfitta. Nico, cosa è Eurolega crudele questa? Zesca grande favorito, vedo le greche un po' in ribasso, vedo il Maccabi comunque competitivo, vedo il Barcellona che è sempre il Barcellona e il Real Madrid che è nettamente più forte dell'anno scorso. Tu come la leggi questa Eurolega? Sei d'accordo con me? Zesca favorito? Sicuro Zesca. Anche se rimane in elenco tutto l'anno, secondo me è il super favorito, perché comunque hanno una potenza a tutte posizioni, sono completi, hanno taglia fisica, hanno talento, veramente una grande squadra, ma sono tante squadre, veramente tante squadre, possono andare fino in fondo. È troppo presto per fare pronostici, perché anche se ricordi l'anno scorso, sì, a fine ottobre tutti dicevano sicuro Olympiacos o Cesca ancora o non so qualsiasi altro sarebbe il Final Four, invece siamo andati noi, Real Madrid, Panathinaikos e Maccabi. Allora è una sempre Eurolega, ci sono 12 squadre, 10-12 squadre che possono andare fino in fondo. Sicuro sono d'accordo, forse Cesca e Barcellona sono i due squadre teoricamente più forti. Panathinaikos teoricamente in un livello grandissimo, anche Panathinaikos campione d'Europa, sì, non hanno cambiato tantissimo, ci sono andati via due giocatori importanti, ma comunque anche loro sono tra i favoriti. Poi sono tante squadre, se al top 16 sei un livello in questo livello devi essere, puoi andare fino in fondo. Certo. Un'ultima cosa Nick, dimmi la verità, cosa ne pensi di Milano? La vedi al vostro livello? La vedi magari superiore a voi? Come vedi, come valuti tu Milano? Secondo me veramente sarà una grande battaglia. Milano ha fatto un grande mercato, ma già si vede una squadra con ruoli. Si vede che hanno già lavorato, si vede una squadra che gioca bene, e sicuro anche per loro il tempo aiuterà, perché sono tanti nuovi giocatori, anche nuovo allenatore. Allora credo sarà veramente un grande battaglia. Grazie Nick, buon lavoro. In bocca al lupo, grazie a Nikos Zizis, playmaker della Montepaschi Siena e campionissimo, come ben sapete. Sì signori, domani c'è Inter Juventus e noi parliamo di basket, perché avremo tempo domani naturalmente nel prepartita, avremo tempo domenica, un sacco di tempo e di spazi, un sacco di polemiche, magari di masturbazioni mentali. Oggi parliamo di sport. Marino da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno caro, complimenti sempre per la sua grazie trasmissione, siete eccezionali come staff e soprattutto lei come portabandiera. Grazie. Una domanda, visto che è considerato come è andata a finire la nazionale italiana di basket, come siamo messi con i vivai? Come al solito? Come niente da raccogliere? È tutto da sperare? a sto punto dico, ma non è meglio fare un bel decreto legge là dove per no, forza maggiore lasciamo stare mi lasci stare i decreti legge per favore, la legislazione d'emergenza, siamo pieni di questo. Avremo bisogno di programmazione più che di emergenza, caro Marino. Esatto. Mi sembra che comunque noi non ce ne accorgiamo ancora, non lo percepiamo ancora, però tutti quanti mi dicono che il vento sia cambiato, non in maniera magari ancora definitiva, però mi sembra che rispetto a 3, 4, 5 anni fa ci sia maggiore attenzione e vengano utilizzate maggiori risorse per i vivai. Quindi noi non vediamo i risultati e quindi diciamo tutto male, piove, governo ladro, no? Invece mi sembra che da parte dei team di alto livello ci sia una maggiore attenzione, ci siano più risorse, vengano utilizzate più risorse anche per chi deve insegnare la pallacanestro, che credo sia la vera chiave di volta dell'intero discorso. Sa Marino? Sarei disposto a fare oltre quello che faccio, non solo per il basket ma anche per altre discipline. Fatto sta che comunque è la coscienza individuale di ognuno di noi rimboccarsi le maniche per dare una mano sul serio ai giovani. Io ho un figliolo di 14 anni che gioca a calcio in una società dove non hanno niente. Tutti noi genitori ci siamo autotassati e stiamo cercando di portare avanti questa sorta di avventura, ma per l'educazione sportiva che ai giovani bisogna trasmettere. Sì. Mia moglie, che è stata un'atleta nell'ambito della pallavolo, va gratuitamente a scuola di mia figlia a insegnare addirittura la postura, ragazzi. Cioè tu non puoi fare sport e ti mangi un chilo di patatine, come anche devi conoscere cos'è l'avambraccio. Sì. Allora siamo veramente a rizzo un terreno, no, e quello vivamente. Però Marino, qui stiamo parlando di un'altra cosa ancora, e cioè della fruibilità dello sport da parte dei nostri figli che vanno a scuola. Stiamo parlando degli spazi per fare sport, stiamo parlando di organizzazione, non stiamo parlando di settori giovanili, di squadre magari di alto livello. Stiamo parlando di un'altra cosa ancora, e allora da questo punto di vista non posso che associarmi, ma il discorso è molto lungo e molto profondo. Io intanto la ringrazio, grazie Marino da Roma, ci fermiamo per il traffico, 800 24 00 24, il numero verde, e poi proviamo a capire se l'NBA partirà, se gli aerei per gli Stati Uniti stanno per riempirsi, e ovviamente ci salirà anche Danilo Gallinari, oltre che Bargnani, che mi pare abbia interrotto trattative che aveva in ballo non con Roma, a questo punto con Montegranaro, però trattative sospese, c'è profumo di ripresa. Palla spicchi. C'è anche chi scrive una cosa magari un po' banale, demagogica, ma magari vera: i nostri ragazzi dei vivai hanno in mente l'iPhone, da altre parti hanno fame. Però adesso vorrei affrontare un altro discorso che prima abbiamo anticipato, collegandoci con New York, dove c'è Simone Sandri, che saluto. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Ben svegliato, considerato che da te è molto presto al mattino. E Flavio Tranquillo, naturalmente. Ciao Flavio. Buongiorno. Sentiamo subito la cronaca, le ultimissime dalla Grande Mela. Allora, partono o no? Si avvicina la scadenza, il bonifico non arriva, perdono il primo stipendio e cominciano, non dico a calare le braghe, ma a calare le richieste, i giocatori. Beh, questa diciamo è l'accusa che fa Billy Hunter, il presidente del sindacato, ai proprietari, cioè quella di aspettare veramente a negoziare fino a quando i giocatori non perdono almeno il primo stipendio. C'è sicuramente un fondo di verità. È anche vero che c'è una scadenza che più o meno sanno tutti, che è quella della partita di Natale, quando veramente la stagione NBA, almeno la regular season NBA, parte col botto, con la sua prima televisiva nazionale, ed è anche per via della pressione della televisione sicuramente una data che anche i proprietari cercheranno di non farsi sfuggire. Per cui credo che l'accelerazione di questi ultimi due giorni sia dovuta anche proprio al fatto che il traguardo è più o meno in vista, anche se ci sono dei problemi di fondo, e c'è questa idea che nessuna delle due parti vuole perdere troppo tempo, perché ovviamente i giocatori non possono perdere uno stipendio o due, e i proprietari non vogliono perdere la data della partita di Natale. Per cui adesso, secondo me, questa accelerazione è dovuta a questo fattore. C'è abbastanza ottimismo dopo le 15 ore di discussione di mercoledì e le 7 ore e mezzo di giovedì. Vediamo cosa succede nel fine settimana. Flavio, tu sei sempre a livello delle sensazioni o hai qualche certezza adesso? No, Ma io penso che certezze possano averle forse 3 o 4 persone al mondo, se non meno. Le sensazioni sono quelle di Simone, soprattutto la sensazione che questo weekend rappresenta assolutamente l'ultima frontiera per cercare di salvare tutta la stagione o sostanzialmente tutta la stagione. Da lì in poi si ragiona su altri tipi di soluzioni che naturalmente sono più penalizzanti per tutte e due le parti. Simone, adesso lo schedule degli appuntamenti cosa prevede? Cosa succede nei prossimi giorni e nelle prossime ore? C'è una deadline? Una vera deadline non c'è, anche se oggi per l'ennesima volta la NBA dice che questa, oggi, quella di oggi è una giornata decisiva, però di giornate decisive purtroppo ce ne sono state diverse, per cui sono un po' scettico quando sento questo aggettivo da parte di David Stern e di Billy Hunter. Sicuramente il meeting di oggi, che inizia tra un paio d'ore qua nella Grande Mela, è fondamentale perché credo che, come ha giustamente detto Flavio, se non si arriva a un punto importante nelle negoziazioni, almeno entro sabato o domenica, allora c'è un rischio che cambino un po' le prospettive. Per cui sicuramente la giornata di oggi sarà fondamentale e vediamo quello che succede. L'ultima cosa, Simone, ma i tempi tecnici, una volta che si alza il fumo bianco dal camino del palazzone newyorkese, che cosa succede? Perché ci sono squadre che devono fare letteralmente la squadra, che devono fare la preparazione, quindi io non credo che da un giorno all'altro si accendano tutte le luci, comprese quelle delle telecamere, e si gioca l'NBA. Esatto, questo è secondo me l'aspetto anche più interessante della situazione, perché nel momento in cui Billy Hunter e David Stern si stringeranno la mano ci sono appunto dei tempi tecnici prima dei quali non si potrà riprendere a giocare. In linea di massima ci vorranno più o meno 4 settimane. Dobbiamo considerare che una volta che c'è l'accordo ci vorrà almeno una settimana per scrivere l'accordo per da un punto di vista legale, per avere gli avvocati a redare proprio l'accordo. Poi ci vorrà almeno una settimana di mercato, di free agency, mettere nero su bianco con le fondamenta delle squadre, e poi almeno credo 2 settimane di pre-season, per cui realisticamente è pensabile che una volta che si giungerà a un accordo forse si riuscirà a giocare dopo un mese. Grazie Simone Sandri da New York. Flavio, credo che il problema adesso sia questo, no? Firmano l'accordo, però quanto restano quelli che ci sono di qui? Quanto tempo ci vuole per costruire l'NBA sul campo? I tempi di cui ci ha parlato Simone sono tempi che sarebbero sostanzialmente adattati all'esigenza appunto di partire più in fretta possibile, perché le prime ipotesi che ho sentito io parlavano di 3 settimane per scrivere l'accordo, di 2 settimane di free agency e di 2 settimane di training camp. Chiaramente non ci sono e quindi si fa di necessità virtù. Quanto al discorso quando si trova l'accordo, quando se ne vanno quelli che sono all'estero, e credo che sia un po' complicato, perché il contratto di questi giocatori con la loro squadra NBA era effettivo anche, è effettivo anche in questo momento, pur in regime di lockout. Quindi teoricamente la firma del nuovo accordo di per sé stesso non dà un riferimento su quando devono andarsene. È chiaro che poi devono sicuramente andarsene almeno un giorno prima che sia necessaria la loro presenza al training camp. Sicuramente, ma trovi realistico comunque il tempo tecnico di un mese? Dalla firma al primo salto a due? È realistico, ma stiamo parlando di una specie di miracolo, come il famoso Palamaggio costruito in 107 giorni. Siccome lo hanno fatto, si può fare, però sarebbe veramente bruciare le tappe un mese. Per chiudere, Flavio, io volevo un commento sulla tragicommedia di Omar Thomas, perché insomma mancava anche questa, no? per togliere, per grattar via un po' di credibilità. Ma guarda, secondo me la vicenda di Omar Thomas, indipendentemente da quello che sarà il suo futuro, dimostra l'assoluta inutilità di avere degli status diversi da un giocatore rispetto all'altro. Sì. Se volessimo eventualissimamente dividere il mondo in italiani veri, senza prendersi in giro, e stranieri, magari ancora, ma all'interno degli stranieri fare 10 sottocategorie, oltre che 1000 altre cose, è veramente autolesionistico da parte di chi lo fa. Lo dimostra il fatto che lo stesso giocatore, a seconda dei passaporti, vale prima 100, poi 200, poi 800. E questa è una follia che ovviamente poi porta con sé anche magari la volontà o necessità o tentazione, certo, di farsi il passaporto in casa. Non c'è dubbio. Sentiamo domenica, Flavio, grazie. grazie. Sarà fatto. Grazie. Grazie a Flavio Tranquillo, con cui chiudiamo questa puntata di Palaspicchi. E poi domani dalle 5 sarà qui con me, tra l'altro, Massimo Callegari da Mediaset. Avremo tempo e modo di parlare di Inter Juventus, di Roma Milan, del Napoli che pure gioca domani e poi volerà a Monaco per giocare col Bayern. Insomma, tutte queste cose a domani alle 5. Grazie a Franco Piantarini in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buona giornata.